Ah, questo non l'abbiamo mai saputo. No. Ma glielo chiederemo, però. Glielo non chiederemo. Ok, allora ci vediamo al prossimo Cox. Dobbiamo andare a chiedere al pilota da dove scendeva. Siamo qui super mega galatticamente insieme a All'improvviso il corpo Festival, che è il protagonista del 270esimo Cox. Ok, e a parlarne Roberta Zerbini, ideatrice, direttrice. Wow, wow, wow, wow. Grazie, grazie. Poi abbiamo anche il piacevole ritorno di Chiara Pergola nella funzione di menzionatrice. Infatti io adesso mi ammutolisco. Ma no. Ammutolisco. No. No, dai, resta con, cioè, nel senso. Non hai colto questa finezza e ciò mi deluma. Sì. Perché mi sa di disciplina olistica questa. ma dopo si capirà, quindi ascoltatore. Aguzza l'ingegno. Io ora mi ammutolisco. E a questo proposito 333 180 94 94 per chi voglia provare a indovinare dove l'arguzia della nostra Pergola si sia spinta a questo giro. E tu Stefano come stai? Che sei lì che testi con i messaggini? Sto postando che si nasconde dietro il monitor, no? Quindi io non lo vedo come gli studenti all'ultimo banco e sta lì tutto a chattare con gli ascoltatori. Esatto. Faccio come i miei studenti. Ma ce n'è un altro, è proprio l'ora di punta adesso. Faccio come i miei studenti cinesi che riescono a connettere il computer dell'Accademia con il loro. Però bisogna far partire Get Back dai Beatles dopo questo. No, dicevo, loro non ho capito come senza fili riescono a connettersi con i loro cellulari ai computer dell'Accademia e fanno i videogiochi nell'ultimo banco. Ah sì? Sì, tipo fanno le macchinine. Io li vedo che esaltatissimi. No, ma li scrivono? Cioè costruiscono videogiochi? No, oppure? No, no, ci giocano, ma figurati, questi non sanno fare quasi niente. Ma torniamo sul pezzo che abbiamo un coxo ricchissimissimo. No, ricchissimissimo. Perché? Aspetta, che intanto salutiamo Livana Spinelli che si è svegliata adesso, per cui gli ho detto metti sul 103.1 FM di Radio Città Fujiko. Sì, oppure... Ciao Ivana! No, non farmi queste cose, Chiara, per favore, resta a distanza. Non c'è più un timpano in tutto lo studio. No, allora, non occorre che ti avvicini più di tanto, soprattutto se vuoi alzare la voce. Stai lontana da quel cazzo di microfono. Ok, l'abbiamo detto in tutte le lingue possibili, aspetta che lo dico anche in cinese. Sì, io intanto comincio a concentrarmi. Cosa abbiamo messo di musica di sottofondo alla fine? Homo Mini Loops. Ah, okay. Senti che ambient sotto gli aeroplani. No, vabbè, dai, qui il tempo stringe, abbiamo tantissime cose di cui parlare. No, anche perché abbiamo un festival all'improvviso di cui parlare. Abbiamo un festival che si chiama All'improvviso il corpo, che in realtà è due festival, e oggi, dopo un cappello generale, ci concentreremo sulla prima parte del festival. Innanzitutto, però, possiamo dire. C'è una mosca. Possiamo dire che tutto il festival si svolgerà al Parco del Paleotto. Sappiamo tutti dov'è? No. Mai sentito dire. Io non conosco nessuno. No, io lo conosco da millenni e sono arrivata a Bologna, vabbè, da 22 anni, però già da 10 anni fa lo conoscevo. È a Zola Pietosa, il Parco del Paleotto. Dalla parte opposta. Esattamente. Allora, è più tra Rastignano. Sì, è in fondo via Toscana, è a Rastignano, anche se fa parte del Comune di Bologna, quindi è uno dei bellissimi parchi del Comune di Bologna. Tomo. In fondo a via Toscana. Ed è un parco. Scusa per i cinesi che ci ascoltano, giustamente. No, ed è in collina. Ed è al freschissimo. Ed è al freschissimo, grazie al lavoro incessante di Roberta che ci sta dietro da mesi e mesi. In collina si ballerà. Tutta la cittadinanza è invitata a ballare in collina in una pista enorme di 180 metri quadri, che non si sa neanche quanto grandi siano. Siamo qui che ci chiediamo ma quanto grande sarà, quanto potremmo rotolarci. E quindi io passerei la parola a te, magari com'è nata questa idea? Per introdurci un pochino. Diciamo che il festival l'abbiamo già fatto l'anno scorso, questa è la seconda edizione. Quindi diciamo. Si chiamava All'improvviso il corpo anche l'anno scorso? No. Si chiamava solo All'improvviso. Ah, okay, quest'anno abbiamo aggiunto Avete aggiunto il corpo? Sì, abbiamo aggiunto una specifica perché c'è un mese intero che è dedicato alle pratiche del corpo. Infatti, questi bellissimi tre cartoncini. Il secondo si chiama La Terra del Corpo, che è la parte dedicata alle pratiche. Dal 10 quindi, giugno al 6 luglio. Bravissima. E ci siamo dentro perfettamente. Esatto. E in questo periodo. Per una volta il COX puntuale. Infatti, anzi, anche molto in anticipo rispetto al festival. E durante tutto il mese di giugno al Parco del Paleotto ci saranno delle pratiche quasi gratuite per tutti. Tra la danza. Quasi gratuite vuol dire che costa un poco. Che costa un pochissimo, bravo, okay. Hai capito tutto. No. È bene mettere in chiaro. Assolutamente. E ci sarà ovviamente la danza contemporanea che ne farà da padrone per tutti i due mesi. Ci sarà il Qigong, ci sarà il metodo Feldenkrais, ci sarà un seminario la prossima settimana di improvvisazione teatrale con Katia Pietro Belli. Ci sarà un bellissimo weekend di Contact Improvisation, yeah, la prima volta a Bologna, dove si può venire con la tenda, col camper, dormire in casa, perché noi abbiamo un bellissimo chalet all'interno di questo parco che può ospitare fino a una ventina, trentina di persone. Poi ci sarà il primo ospite internazionale del festival, che si chiama Pablo Tapia Leighton, che terrà un seminario invece questo per professionisti, con una restituzione a fine di questi 5 giorni super intensi. E questo serve solo per preannunciare il festival. Che comincerà il 7 di luglio. Proprio finisce una cosa, comincia l'altra. Esatto. Ta-ta. Esatto. E va, comincia il 7, finisce il 21. Sì. E qui diciamo tutti sono benvenuti, però a parte alcune masterclass, mi pare di ricordare, principalmente sono eventi in cui si viene ad assistere, poi in varie maniere partecipate, non partecipate, itineranti o meno. Certo. Sì, il festival sono performance che si vengono ad assistere. Invece tutto il periodo precedente, cioè questo mese di giugno, non si assiste ma si fa. Quindi se qualcuno vuole insomma, iniziare a capire un po' questi codici dei linguaggi contemporanei, forse è meglio praticarli che non solo guardarli. Allora che non tentare di capirli. Questi, ma quindi scusa, se uno arriva da semplice pubblico viene coinvolto in un'attività? Tocca di fare il teatro. Nel mese di giugno ci sono solo le pratiche, non ci sono spettacoli. Quindi le performance sono nel mese di luglio, cioè durante il festival. Quindi cioè, voglio dire, se viene uno digiuno di pratiche corporee, viene subito incorporato? Viene, come dire, favorito il suo ingresso all'interno di queste pratiche. Poi deciderà lui se vuole o no. C'è anche un progetto di danza e comunità che. No, infatti stavo guardando il programma, ma c'è una gran marchetta. Il 14 luglio c'è Fedra Boscaro. Ma cos'è? Ma oggi dobbiamo parlare. No, no, è completamente conflitto di interesse. No, oggi dobbiamo i microfoni tutto. Oggi dobbiamo parlare della parte prima, che il secondo cartoncino. Cosa fai con la borchietta? Sta attento Stefano. Rispetta no, la borchietta. Devo dire che questa cosa qua me la copierò perché è bella. No, è più che altro è molto efficace e poco costosa. No, Pixar printing, tre cartoline, tac, un buco a mano e per ci vuole una buona manovalanza, però esatto, per il buco certo. E il fermacampione. No, dai, quanti stagisti questo giro? Bravissimo. Tra l'altro, il fermacampione sono uno degli oggetti, secondo me, più interessanti della storia del mondo. Allora, tornando ai contenuti nella forma, parliamo dei fermacampioni. Per no, aspetta, perché io adesso sono pronta per la mia, probabilmente per la mia gaffe, che sai, ogni puntata devo fare una gaffe. Okay. E avevo letto da una parte o dall'altra che c'era questa cosa in cui, che era proprio promossa da te come tua ricerca, in cui si faceva qualcosa proprio con la cittadinanza. Sì, sì, è il questo laboratorio di danza. Ci hai preso? Sì, ci hai preso. Ma no, e allora la GAF quando verrà? Non verrà oggi. Si chiama Fatti Vivo. Ecco. È un progetto di danza e comunità, quindi è un progetto che cerca di incontrare danzatori, professionisti con persone della città che non hanno mai praticato, possibilmente il più eterogeneo possibile di età, estrazione, culture, nazioni. E quindi sarà un arricchimento conto grandissimo per entrambi, sicuramente per chi danza, che avrà modo di affacciarsi al linguaggio poetico insieme a persone che magari non hanno. E come funziona? C'è già una scaletta di appuntamenti? Sì, sono 6 appuntamenti che anche questi vedranno una restituzione quando l'ultimissimo giorno del festival, in modo da fare una chiusura veramente aperta alla città. Però questo qui è un evento che parte nel corpo. Sì, questo trasversale. Sì, è trasversale perché ci sono 4 appuntamenti durante giugno e 2 appuntamenti sul palco nel mese di luglio, proprio per preparare poi il gruppo alla performance che ci sarà il 21 luglio come serata conclusiva del festival. Quindi è un progetto che comunque tiene il fil rouge di tutto il festival. Io non sto festival. Capendo un cox. Davvero? Non so che cosa. Allora, ricominciamo con ordine. Oscar Moroni mi ha distratto. Allora, ricominciamo dal ferma campione. Non capisci niente perché sei distratto. Esatto. Come tipico dell'ultimo banco. Esatto. Infatti, requisitegli il cellulare. Via, via, via. Chiara, ti do. Vai. Devi. Ma secondo te questi moscerini che mi volano sulla faccia sono gli stessi che mi volano sulla faccia a casa mia? Ti hanno seguito fin qua, sì, come potrebbe essere di Linus. Allora facciamo così, per riprenderci un attimo così, che intanto magari gli facciamo un piccolo recap a Stefano, esatto. Nel mentre mandiamo un branino. Sì, ce l'ho io. Ce l'hai tu? No, ce l'hai tu lì. Ce l'ho io però, nella chiavetta? In quella chiavetta lì. Però se mi dici che cos'è, magari ti dico anche. Sì, io ti dico che cos'è e tu mi dici che cos'è. Sì. Va bene, allora io ciò. Un You Make Me Vomit. Ecco, potremmo mettere quello. Questo? Sì, vai. Oppure Harvest Moon. Harvest Moon potrebbe. No, magari Harvest Moon un po' più tardi. E quando cosa potrebbe accadere? Cosa potrebbe accadere? Invece era quello che volevo mettere di sottofondo, ma che tu non mi hai permesso di mettere. Per cui metti You Make Me Vomit. Che adesso non mi ricordo più come si chiama l'autrice. Però un bellissimo caschetto rosso. Infatti, sì. E allora vai. Vai, andrà. You make me vomit. You make me vomit. All the words I didn't say to you. When I left, you didn't say anything, and you felt like a king. Called my brother to pick me up. I felt fragile as a paper cup. You are somewhere ignoring me, but the last day you were imploring me. My stomach says it's hard to chew the love I got from you. The more you talk, the more I see. You fall every day without me. The more I try, the more you kill my suicide bill. You make me vomit. Cold like yesterday, left over. wishing happiness in falling clovers. My stomach says it's hard to chew. I get from you, you make me vomit. You make me vomit. You make me vomit. All the words I didn't say to you. Sei una mixatrice fenomenale. Lo rimetto, dai. Comunque a te quella brochure piace un sacco. All'improvviso il jingle. Sì, no, perché poi è anche plastificata. C'è la, la tocca, la guarda, dai consigli tecnici. E questo è il 270esimo Coxo. 270 l'abbiamo fatto in 5 anni. Io pensavo di essere arrivati a 600. La terra del Coxo. Sì. 720. Sì, no, effettivamente sembrano 15 anni, mentre invece sono tipo 3. No, sono 5. 5, 6. Andiamo un po' di numeri, che va sempre bene. Ed è anche in linea con questo momento. Che è il momento dell'espansione della menzione. Sì, comunicazione di servizio. Ivana, vestiti che andiamo a cena. Va bene? Allora, È un ordine. Lo metti in linea con le menzioni. Sì, cioè, prima menzione, Ivana si veste. Sento poca musica di sottofondo, non per rompere i coglioni. Ah, no, grazie. Me l'ho dimenticato perché avevo un mini loops. Eccolo qua, ci vuole sempre. Il mini loops. Sì. Homo mini loops, che si vabbè, agita. Insomma, Homo mini lupus. Mini loops si agita. Allora, il 270esimo Coxo è interamente dedicato all'Improvviso il Corpo, un festival che si divide in due sezioni, che avrà luogo a Bologna nel parco del Paleotto, che è sotto il comune di Bologna, però ci si arriva attraverso Rastignano, e si tiene dal 10 di giugno al 21 di luglio. In particolare oggi Roberta Zerbini, direttrice artistica del festival in questione, è venuta a raccontarci nel dettaglio le attività della prima parte, che si chiama Terra del Corpo, in cui ci sono un sacco di attività che invitano la cittadinanza in tutte le sue varie declinazioni a partecipare e ad incontrare queste pratiche contemporanee per in questo esempio, bellissimo parco. Il metodo Feldenkrais, che cos'è? Ecco, io devo dire, perché la Spinelli intanto mi ha scritto, scusa se mi intrometto, che le duole la schiena, secondo me questo le farebbe bene. Questo potrebbe essere per lei. Non sai veramente che cos'è il metodo Feldenkrais? No. È quello lì, è un artista visivo che dobbiamo fare. Ammetto la mia ignoranza performativa festivaliera. No, in realtà è una pratica somatica, non c'entra niente con le pratiche performative. Cos'è la pratica somatica? Una pratica somatica è... Questo l'ha chiesto Fede. Ah, ok. Questo lo sapevi che cos'era? Sì. Okay, sai cos'è la pratica somatica? Però andiamo avanti. No, raccontiamo ai nostri coxici, a Oscar Moroni, che cos'è una pratica somatica. Durante la settimana potete trovare delle lezioni di danza contemporanea, delle seminari monotematici di danza contemporanea ogni lunedì, ogni mercoledì. Potete venire tranquillamente, sono 2 ore per cercare di mettersi in contatto con il movimento poetico. E poi abbiamo il metodo Feldenkrais il martedì. Il metodo Feldenkrais è in realtà un metodo di consapevolezza corporea e un sostegno alla capacità di stare nell'apprendimento costante. Questo è il suo obiettivo. Spacchettiamolo un attimo. Spacchettiamolo. Nella lingua di mio nonno, fino alla bara si impara. Bravissimo, perfetto, esattamente quello. Fino alla bara si impara. Però tradotto in questa specifica, cioè, declinazione di attraverso il corpo. Esatto, ovvio. Quindi tutto questo è attraverso il corpo, quindi è una lezione guidata dalla voce dell'insegnante che suggerisce dei movimenti, delle posture non usuali e quindi fa così riscoprire innanzitutto delle possibilità che uno magari ha abbandonato, e in secondo luogo aiuta appunto a rimanere in uno stato di apprendimento costante, perché non si aspetta né è in grado di pensare prima che riuscirà e che andrà a fare quel tipo di movimento, perché non viene visto e copiato, ma viene condotto, guidato. Si impara il metodo Feldenkrais. Giovanna Spinelli vuole sapere se si può fare a domicilio. Possiamo fare a domicilio. Se possiamo mandare un operatore Feldenkrais a casa sua. Sì, assolutamente. Si possono fare anche sedute individuali. Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Verso le 9:25 arriverà. E poi c'è Sandra Mulazzani che invece fa una lezione sotto un meraviglioso albero di Qigong tutti i giovedì. E queste pratiche le trovate per tutta la settimana. Cioè, è l'albero di Qigong o è la lezione di Qigong? La lezione di Qigong, okay. L'albero di Nespole. Ah, ecco. Oh, okay. Bene, così si mangia anche. E dopo si mangia, certo. Anzi, si beve anche, perché all'interno della casa e per tutto il festival c'è l'osteria libreria Gross Road, che è in via delle Fragole, ma che per l'estate si trasferisce alla casa del paletto. Loro avete preso, ma loro sono bravissimi. Certo. Che meraviglia! Sì, assolutamente. Ma e poi sempre in quartiere Savena, no? Quindi questa. Sì, in realtà loro sono un po' Santo Stefano, ma è lo stesso. Non mettiamo a farci la guerra del quartiere. Comunque Nespole in cinese si dice così. Gucci su. Meglio Nespole. Gucci su. Come sì. Quasi tu, cioè tutto in giapponese si dice più o meno così. È cinese questo. Ah, cinese, scusate. Ah, sì. Vabbè, dai. Ma tornando a noi, spacchettiamo un po' anche il Qigong? Spacchettiamo un po' anche il Qigong. Sì, una parte, una sezione di quello che è il Tai Chi. Il Tai Chi fosse già più conosciuto, questa è ginnastica. Tai Chi è una pratica marziale. Una pratica marziale. La parte più medica e curativa di riequilibrio dei chakra, riequilibrio del corpo, è il Qigong. Okay. Quindi è la parte più dedicata al, diciamo, al benessere, allo star bene e a ritrovare un equilibrio tra lo yin e lo yang del nostro corpo. Ma per fare queste cose qui con tutti questi nomi strani. Cioè, io come devo venire? Con la tuta? Devi venire nuda. Vestita come vuoi. Il parco del Paleotto è sulle colline, quindi dopo le 9 di sera ci vuole il maglioncino, perché fa fresco. Hai capito? No. L'angolo della menzione. Da questa parte sono scattati le 20:30, per cui quasi anche qui. Ho partito. Hai partito. Ok, allora comincia Chiara? Dunque. Comincia Chiara con la menzione del. Svelo subito il nostro quiz. No, cioè. prima però Pasquini ha fatto una battuta maschilista, perché qual è stata? C'è questo trend, vero, che tu brava, devi venire nuda. No, esatto. Perché noi, sai. No, ma hai fatto bene ci a sottolineare. Teniamo a sottolineare. No, brava. Bisogna metterlo in croce quando serve. Passiamo oltre. L'Antonia Ciavarella lunedì ci insegna. Il 17 giugno comincia una roba che è infinita. Pazzesca, che non si chiama Open Tour 2019. E il primo evento è Chiara Pergola. No, aspetta, calma, perché non bisogna poi ingombrare. No, il primo evento è Musée de l'Homme, okay. Mostra all'interno di Musée de l'Homme a cura di Tatiana Basso. Io non sono in mostra. Il Musée de l'Homme è la sede ospitante. Per chi non lo sa, il Musée de l'Homme è un museo opera che ha sede all'interno di un comò situato presso il Museo Civico Medievale in via Manzoni 4 a Bologna. E questo museo, che è stato attivo dal 2009 al 2015, poi è entrato in uno stato di quiescenza quando è entrato a far parte delle collezioni museali, esso stesso tipico fenomeno da museo, e si è automusealizzato. E adesso, in questa sorta di primavera bolognese con tutti questi eventi, si sta invece iniziando a riattivare, ha ripreso a secernere mostre come se piovesse, come se non ci fosse un domani, e la prima di queste sono molto felice, che faccia parte di questo Esercizi di Stile, che è un progetto in collaborazione tra l'Accademia di Belle Arti di Bologna e l'Istituzione Bologna Musei, che nomi però complessi, che ci siamo lunghi, dati. Lunghi, sempre lunghi in Italia. Mi permetto questo appunto. E, dove gli studenti si confrontano con un contesto, un'istituzione museale. Allora, il Museo dell'Homme, che è all'interno del Museo Medievale, offre questa doppia sfida, perché è un museo nel museo, quindi si devono confrontare gli studenti con due musei, sempre più difficile, magari quest'altro anno con tre musei contemporaneamente. Dipende, perché se è ospite del Museo dell'Homme è un altro museo, e allora si creano i rizomi. È tutto un rizoma. Doppia sfida. Tripla sfida. Ecco, quindi la mostra che inaugura lunedì 17 alle 17, perché gli artisti non hanno paura di niente, no, quindi 17 è un bellissimo numero. È un numero stupendo. Si chiama Ready Maybe. Quindi siamo forse pronti, forse perché? No. Perché? Ready anche, Maybe. Anche oggi stavo guardando tutta questa comunicazione in inglese, con questi giochi di parole che in inglese però non funzionano. Comunque va bene, andiamo. Beh, no, non è vero, perché Ready Maybe in inglese si dice, esistono anche dei titoli di altre cose. Okay. E là invece funziona, perché c'era Ready Made e Ready Maybe. Questo funziona. Funziona. A me mi ha fatto ridere, ma perché io sono di quelli che un po' ne sanno perché ne hanno studiato, e quindi si ricordano quei due nomi in croce, che se glielo ritiri fuori gli dai un po' di autoconfidenza, no? Che cosa troveremo lunedì in questo? Allora, in questo si troveranno una serie di opere che studenti e studentesse dell'Accademia hanno collocato negli spazi interstiziali, quindi indecisi tra Museo dell'Homme e Museo Medievale, quindi dove nelle hanno crepe fatto un po' del. Che gli pareva, no, no, assolutamente, hanno fatto un lavoro secondo me intelligente, e quindi si sono collocate originalmente da nessuna parte, diciamo, nei vuoti dei due musei, nello spazio. E sono tutte studentesse? Direi che sono studentesse e studenti. Okay. Adesso comunque andiamo a elencare esattamente i nomi, così non ci sbagliamo. Allora, sono Ilaria Minelli, Golzar Sanganian, Agato Torelli e Liz Way. E se volete vedere l'happening nel momento del suo accadere, bisogna venire per forza il lunedì 17 alle 17, perché Agato Torelli è una performer, e tra l'altro una delle poche performer che dicono performance con l'accento corretto. Come fa a stare dentro il cassettino? No, lei non sta dentro al cassettino, starà attorno al comò, però io non voglio svelare più di tanto. È una cosa molto interessante che vi invito assolutamente a vedere. Eventualmente, ma comunque venite, io ci sarò. Ok, ecco, è la mostra curata da Tatiana Basso. Lunedì, Museo Medievale alle 17, sì, per vedere Pasquini che guarda una performance. Brava, esatto. Performance. Stavi cadendo. La seconda gaffe che mi sfuggo, cosa succederà alla fine, sarà tremendo. Io intanto ho preparato il brano di chiusura, che devo fare una dedica. Ah, addirittura. Sì. Martedì 18 giugno invece alle 11 alle Serre dei Giardini Margherita. Sarà freschissimo. Stiamo lavorando. Ma sarà più fresco al Paleotto. Un'esposizione di 6 progetti curatoriali del corso di didattica e comunicazione dell'arte, con piccoli interventi di artisti invitati, una mostra di mostre, l'insieme di 6 idee, 6 modalità di lavoro, 6 percorsi espositivi. Allora, io ho una domanda, ragazze, ma quando lui 18, si mette lì a leggere ste cose così, che poi di solito sono anche liste di nomi che non finiscono più, ma non potrebbe sintetizzare e leggere più lentamente, che si capirebbe di più? È all'ultimo alle banco. 17:30 all'ufficio Colinelli, ex 3 Andrea Galvani e Andrea Nacciariti. Loro li conoscono tutti, per cui non c'è bisogno di dire nient'altro. Invece alle 18:30, cioè finito proprio, si corre al negozio Rea Maglia per vedere Ababo, si dice Ababo o Ababò? Non lo so. Io penso a Babbo, però Orea Maglia Logo Contest, la premiazione del concorso e mostra di progetti grafici realizzati per lo storico Tempio del Look bolognese, che festeggia 40 anni di attività. E ti taglia meglio. E sai perché io non ci ho mai messo piede perché, né all'opificio Golinelli e né a Orea Magliani. Ma l'opificio Golinelli è lontanissimo, ma come no, fai? È qua vicino. Tipo... mio figlio ci va a piedi un giorno sì, un giorno no. La mia sedia cigola, si sente sì, questo musicale. Allora, invece mercoledì 19 giugno alle 16.30 al Mambo c'è Re con 3, tracce libere di un seminario, e siccome non c'è scritto chi partecipa, facciamo così. Alle 20.30 Cinema Odeon, Cine Club Accademia. Si passa giovedì 20 giugno alle 11 la presentazione. Però c'è il suo fascino, del nuovo eh? Sito dell'Accademia. Cioè, uno va a un evento per vedere, esatto, il sito nuovo, esatto, perché uno devono spiegarglielo, perché è troppo evoluto. L'Accademia per vedere la presentazione del nuovo sito dell'Accademia. Qui devi linkare e c'è clic qua, poi clic là. Tempo che è finito, era alle 11, alle ore 17, ah no, sbaglio, no, alle 15 c'è la notte delle gallerie, che ci sono 18 spazi espositivi di Bologna che presentano le opere degli studenti dell'Accademia, e lì bisogna dire che se andate su www.coxospaziale.blogspot.com trovate tutta la lista delle gallerie, perché naturalmente sono tutte le gallerie. E non ce le leggi tutte adesso, una di più dall'altra? Ve le leggo. Potrebbe essere impegnativo. Attenti che lo faccio. Non so. 3, 2, 1. Via! Ciao! Questo. Vabbè, dai, c'è Car Di Paolo Arte, Galleria Più, locale 2. Provo a leggere tutte come Bugiardini in Blue Gallery, L'Ariete, Galleria Studio G7, MTM, Otto Contemporanea, Studio Cenacchi, Lab City, questa non la conoscevo, Galleria Stefano Forni, Labs AF Contemporanea, Enrico Astuni, Adiacenze, Spazio Labò, Enrico Astuni di nuovo, non si sa perché lui c'è due volte, ma perché sarà ci avrà due spazi. Per far dispetto a te. Abbiamo finito? Non abbiamo finito. Ma siamo arrivati al 17. No, siamo arrivati solo al. Non mi ricordo più. Ah, stavo sbagliando pagina Facebook, ecco perché. Ecco. Ci fermiamo a venerdì 21 giugno, perché poi continua, ma ne parleremo nel prossimo Cox Spaziale del 21 giugno. Sì. Alle ore 17 in aula Magna, sempre in Accademia, c'è il premio Giorgio Morandi. E poi alle 17.30 c'è sempre, stavolta ci si sposta in Pinacoteca nel Salone degli Incamminati con È Qui, gli studenti di decorazione che rielaborano qualche cosa. Poi dopo c'è l'Open Tour Art Fest che va dalle 19 alle 24 sempre in Accademia, praticamente si beve, si balla, si guardano un sacco di performance, un sacco d'arte. Finito. Siamo stati bravi, ci ho messo neanche 8 minuti, compresa la Chiara Perro. Compresa? Io cos'ero? 4 minuti. Eri dentro un comò, tipo, ricompattata. Vogliamo andare avanti con anche sabato? No, no, sabato sarà neanche. Quando continua questo delirio? Fino a sabato 22 giugno, però ci sono anche degli eventi fuori Bologna. Cioè, tipo, c'è Garden di Scultura. Cominciamo con gli eventi fuori Bologna? Secondo me, forse bisogna dire a Coso che hanno poi. Ho un suggerimento. Io metto. Cosa sarebbe Fornaroli. Grazie, non mi veniva il cognome. Mettiamo sto branino, così ci riprendiamo un attimo da tutto questo bagno branino. Di quale branino metteresti? Allora, il brano della lo tengo per dopo, e quindi adesso abbiamo Harvest Moon. E cosa potrebbe accadere? Quindi solo Harvest Moon, perché io direi di mettere Harvest Moon, che è il nuovo disco, e ringraziamo Francesca che di Studio Simprex 44 che ce l'ha spedito, è il disco d'esordio di Chiara Viola con Filibusta Records, una cantante romana, 8 brani jazz e melodia, ricerca, punti di viaggio, esperienza, vai, parti. Thank you. melodiche sdolcinate, tipo Stella Donnelly, che ho scoperto che Mighty FM non conosce. Sono bellissimo, Stefano in versione critico musicale. Io potrei comporre qualcosa con questa sedia, magari dando un ritmo. Questo piacerebbe più a me, che credo, è più nel mio genere, ecco. Allora, con queste note morbide di sottofondo, ma sì, ci voleva un po' questa di, sera un po' che arriva dopo tutto questo caldo, un po' di brezza, qualche aereo che passa. Non lo so. Non lo so, ma so. Moroni se si sente. Sì, che si no, sente. Ma lo sappiamo anche noi, non c'è bisogno di chiamare. Si sente, no? Sì, sì. Ma invece di Suzzara non diciamo niente, vero? No, ma di Suzzara semmai dopo. È fuori porta, quindi vediamo se rimane. Andiamo un po' fuori porta, nel senso non fuori comune, ma fuori dai viali, e un po' in fondo. Diciamo ritorniamo a Rastignano. Ritorniamo a Rastignano, che già me lo immagino. A quest'ora, col tramonto. Con l'aria che finalmente spazzola questi alberi. Arriva un Boeing che non ci sentiamo. E c'è questo prato e questa casa, e di fianco questa pedana enorme, coperta, un po' illuminata ma poco, con tanti antizanzare. E perché in realtà, sin qui, cara Roberta, tu mi hai parlato solo di uno degli elementi che vengono a costituire questo prima parte del festival, ovvero la terra del corpo. Bel nome evocativo, fra l'altro adoro anche l'immaginina, che fa molto in italiano, l'abbiamo chiamato a proposito. Stefano, sottolinearlo dopo il fermacampione, esatto. È scritto in italiano, mi sembra è giusto. Io sono d'accordo nel mettere. Quindi ci sono tantissimi eventi, anche se è un po' difficile selezionarli, però diciamo i più importanti da qui al 7 di luglio, che è la data di inizio del festival, sono nonché compleanno di Nicola Pasquini. Ah sì? Ah. Sofia, auguri Nicola Pasquini. Sono questo laboratorio che si chiama Fatti Vivo, in onore di questa poetessa meravigliosa che si chiama Livia Chandra Candiani, che tutti conoscerete perché è veramente splendida, e se non la conoscete andate a leggere le sue meravigliose poesie. Ce ne passi una che la pubblichiamo sul blog di domani, su www.cazzospaziale.blogspot.com. Assolutamente sì, perché ne vale la pena, e una delle sue più belle è appunto Fatti Vivo. E io l'ho rubato come titolo di questo laboratorio di comunità. È un laboratorio che cerca di portare un gesto poetico all'interno della vita quotidiana delle persone. Questo è quello che cerchiamo di fare attraverso il corpo, di ritrovare un senso di dialogo e di comunità fra le persone differente, senza magari usare il linguaggio o gli stereotipi vari, anche delle arti performative. E questo si snocciola in 6 appuntamenti. Cominciamo il 22 di questo mese di giugno, quindi abbiamo che è sempre la settimana prossima, è la settimana prossima, infatti è veramente vicinissimo tutto, e terminerà però a luglio, quindi ci vuole un po' di disponibilità, di avere un po' di tempo quest'estate da dedicare a questo progetto. Perciò diciamo che magari chi è curioso può venire a fare una comparsata, esatto, però sarebbe viene bello il 22, e dopo magari se decide partecipa a tutto il progetto, che sono comunque 6 incontri. E abbastanza intense, sono 3 ore, ma ci sta, insomma, bisogna entrare nel linguaggio, conoscersi. No, che poi in realtà 3 ore fanno paura a uno che non è pratico, ma in realtà tra una cosa e l'altra il tempo si dissolve, alla fine ti trovi che è già finito e dici: ma come, di già? Assolutamente. Un po' come quando fai la radio. Un po' come quando fai il coxo. E questo ad esempio è gratuito, quindi tantissime sono le attività gratuite per quest'estate lì su Al Paleotto. È gratuito grazie ovviamente al contributo del Comune di Bologna, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, insomma, e a tanti altri sostenitori. Dopodiché si entra in un weekend di contact improvisation dove si potrà rimanere su a dormire, a mangiare, a danzare, a guardare le stelle, a guardare l'alba, il tramonto, o anche a sdormicchiare sotto un albero. E faccio una piccola parentesi perché bravissima, ne so qualcosina. Certo, ovviamente. Questa 3 giorni sarà un alternarsi di jam e lezioni, e come insegnanti abbiamo la creme della creme della contact bolognese, ovvero Anna Albertarelli e il cripto insegnante di contact Giacomo Sacenti, che chiamo così perché in effetti alla fine la contact fa un po' un giro di comunità, nessuno lo conosce perché questo si incunea sempre a insegnare in posti nascosti tipo accademie, questo e quell'altro, e quindi io sono riuscita, perché effettivamente Roberta ha dato a me il mandato e io insieme a Caterina Mocciola ho costruito questa 3 giorni. Gli insegnanti saranno Michele Marchesani, Giacomo Sacenti, appunto Anna Albertarelli e Caterina Mocciola, che in 2 giorni creeranno un percorso integrato fra le loro lezioni, e il goal che ci siamo messi di voler condividere è quello di fare contact improvisation incentrando però l'attenzione sulla parte improvisation, quindi tramite l'improvvisazione arrivare alla contact, e lì sicuramente non mancheranno gli spunti per arricchire la danza, soprattutto empatizzandosi con l'ambiente, diventare un pochino, spero, le simpatiche creaturine che vedrete domani su www.costolpaziale.com, che sono un po' gli spiriti, i daimon di questo festival. Posso fare una cosa un po' coxica? posso dire benvenuti alla 271esima puntata di Coxo Spaziale, che è stata cominciata, registrata all'interno della 260. Stefano, è così bello fare la radio con te, ti ringrazio. È abbastanza performativa. Sì, sì, sì. Sì, rizomatico. Anche questa è una trasmissione nella trasmissione. Una trasmissione nella trasmissione. È un po' in linea con... È un po' home. Abbastanza home. No, allora, e quindi questa è la 3 giorni, e per la 3 giorni ovviamente si può venire anche alle jam, però è gradita anche lì prenotazione, i costi sono veramente minimi e comprendono anche sicuramente dei pasti, poi l'alloggio è incluso, chi si vuole portare il sacco a pelo, chi la tenda, e spero tanto che ci siano tante stelle perché io sarò là. E tante lucciole. Ah, che bello, è vero, ci sono anche le lucciole. Sì, là. Ce ne sono tante. Non vedo l'ora, Roberto, non vedo l'ora, grazie, Paleotto magico, sì. E poi continuiamo sì. In luglio o ce lo teniamo per la puntata dopo? Io direi di sì. Ce lo teniamo per la puntata dopo? Rimaniamo fino a giugno, si conclude così. Però ce n'è ancora tanto, tanto, tanto. Branino? Cos'è la seconda scia? La seconda scina. No, andate via. Scina B, detta anche Barbara, è andata a vivere a Padova. A casa mia. Ha fatto l'ultima puntata mercoledì scorso e non l'abbiamo visto. Ma cos'è sto traffico Padova-Bologna, che c'è un sacco di gente che si incrocia così? Cioè, è veramente spaventosissima. Sei sta tu cosa. Che l'organizzi. Esatto. Ah, cavoli, non dovevo. Paesaggi spaventosi. È questo il traffico tra Padova e Bologna. Effettivamente la pianura padana, secondo me, solo se sei nato in Veneto ti prende bene. Ah, cioè perché sei nato in un posto così sfortunato. Non lo so, cioè quando vedo la nebbia, mi si scalda il cuore, non lo so. Cioè. E poi che ho usato delle parole. Quando mi trovo nella bassa Rovigota in macchina per queste stradine, cioè è bello, ci sono dei bei colori. Ma penso che sia una cosa proprio intrinseca al cromosoma. Nella bassa Rovigotta. C'è anche a San Francisco la nebbia. Senti, va bene, allora ragazzi, facciamo così. Facciamo così. Io metto il il mio branino con Dedica. Noi ci salutiamo, che... è stato bello. No, sì. Non lo so, abbiamo finito con non dobbiamo dirci più niente. No, intanto metto questo, poi ci capiamo questo. E in caso torniamo a salutare. Va bene. Sì, non facciamo quelle fini che fai tu, tutte concettuali della serie che abbandonati finisce. Senza neanche. Allora, intanto che loro. Salute, io li abbasso un attimo, che intanto che loro discutono. E questa qui è una canzone che, come di consueto, di tanto in tanto dedico al gruppo d'ascolto Coxicol di Rigger, che questo giro si trova a Firenze. Ok? Tutta per loro, perché questo è il ritornello per me e nuclea perfettamente le caratteristiche del tipo. Del tipo Rigger. Non ho capito. Solo il ritornello. Nella bassa Rodrigo. Gotta bring both sides together, like champagne and leather, like birds of a feather, we'll fly, like rain on a sunny day, like $1 million that you're giving away, like a stray dog on the freeway, we'll fly. About trying to leave, or you might miss a name, like Pam or Steve, both incredible names, so let's stay in our seats and read a credible list of their incredible feats. Even better than that is who edits the credits. I bet I'll never forget it. Once I read it, then I'm ready. I'll go to the theater about 90 minutes late. It's a whole dang movie, cause the credits are great. Now if you're gonna be featured on a movie song, the credits is the part that you wanna be on. Ed eccoci di nuovo alla fine ai saluti del 270esimo Coxo. È anche un po' scesa la voce per la tristezza. Comunque, da quando ho scritto sul mio profilo WhatsApp, non mandatemi dei vocali o li trasmetto in radio, non mi hanno mai più mandato dei vocali. Ah, interessante. È questo che serve un programma radio. Un programma radio, intimorire i contatti. Fabio Farnea ha scritto: non mandatemi dei vocali, perché altrimenti li giro a Pasquini che li mette in radio. Per cui, anche se quindi non basta programma un programma radio, radio nella comunità. Tutti possiamo usare questo sistema. Non è male. Tutti quelli che conoscono voi, Pasquini. Io li metto in radio davvero, soprattutto nelle puntate in cui quelle un po' registrate. È andato via il pirolo. Quelle senza pirolo. Esatto, quelle puntate un po' registrate. Io avevo la professoressa di storia dell'arte e liceo artistico di Padova che si chiama Pirolo. Ma perfetto. Sì. Ma torniamo a noi, perché c'era una domanda interessante. Sì, è vero. Mm. Sì, io mi ponevo questo problema. Io me lo ponevo. Io. No, perché Chiara Pergola. Io personalmente. Qui per fare le menzioni. Perché Fedra voleva che io facessi finta che io fossi un ascoltatore che si domanda, invece no, è una mia domanda personale in cui magari qualcuno del pubblico si potrebbe anche riconoscere, ecco. Lasciamo libero. Cioè, in questo festival che mi sembra bellissimo e mi ha molto invogliato, cioè se uno arriva veramente digiuno, cioè l'incorporato di turno che verrà, si trova a suo agio oppure in realtà poi voi siete nelle vostre dinamiche? Perché secondo me spaventa un po' questa un po' come la dimensione del ti trovi così, dici? Ma uno che non è mai andato, no? Come a noi capita, c'è mostre d'arte contemporanea, vero Pasquini? Nessuno viene dal fuori, perché, da fuori perché, perché noi hanno paura di vorre- noi. Ma perché giustamente, giustamente che poi noi non consideriamo. Se ve la tirate. Ci piacerebbe tanto avere moltissimo pubblico, però poi quando il pubblico c'è magari non è lo che lo criticate, non capisce niente sto pubblico, sì, ma che se ne stia a casa. Utile, perché tanto non ti darà lavoro. Allora volevo capire un po' questo aspetto così. Sì, grazie della domanda, perché no, è fondamentale invece per noi esattamente cercare di incontrare nuovo pubblico e nuove persone. E il mese di giugno questa sezione della Terra del Corpo è nata proprio per preparare il terreno al festival e quindi per cercare di trasmettere e comunque di coinvolgere persone nei linguaggi del contemporaneo, nel corpo ovviamente, noi ci occupiamo fondamentalmente di questo. Noi facciamo didattica e pedagogia tutto l'anno, quindi non è che ci interessa diciamo un lavoro specifico per i professionisti, lo facciamo normalmente, quindi l'estate è dedicata veramente a chi non conosce queste pratiche, chi non conosce questi linguaggi, chi quando va a vedere uno spettacolo di performer o di danza contemporanea non ci capisce nulla. E penso che tutto questo modo serva per trasmettere e per condividere dei codici, ma con un linguaggio e con una modalità appunto molto semplice, costa poco, puoi venire un giorno, puoi venire due, puoi seguire l'intero progetto, puoi passeggiare, curiosare e stare un po' e vedere se timidamente se la cosa ti piace. Ci sono degli incontri di storia della danza che tengo io con delle videoproiezioni per avvicinarci appunto al linguaggio, quindi penso che sia un posto molto accogliente. Mi introduco un po'. Si deve prenotare o può arrivare così anche all'improvviso? A noi piace all'improvviso. Assolutamente. Col corpo. All'improvviso il corpo estraneo. E perché alla fine questa cosa qui, questo argomento che avete sollevato e l'approccio del festival mi ricorda anche un pochino quello che sta succedendo poi dal nuovo teatro, il teatro di ricerca, che alla fine studiandolo, avendocelo, respirandolo, provandolo, allora capisci di più il linguaggio e di conseguenza diventa, beh, per qualcuno diventa anche una malattia. Quindi attenti che poi. Comunque secondo me, visto che sono le 20:58, salutiamo. È ora di dare la parola a Mighty FM, visto che è già qui, sentiamola. Buonasera a tutti, stasera parleremo di un altro festival che è più bello. Porta musica, teatro, perché siamo il paese dei festival, lo sa, e che è Arti Vive a Soliera. Arti Vive a Soliera. Facciamo così, chiudiamo dicendo che poi si potrebbe venire tutti domenica 16 a Suzzara per vedere che cosa accadrà. Com'è quella canzone che avevi scelto che non abbiamo mandato? You Make Me Vomit, no? Ma, cosa dovrà capitare? Cosa dovrà succedere? Facciamo che io intanto così ringrazio tantissimo Chiara Pergola per essere tornata e ringrazio in maniera mega galattica Roberta per essere stata e aver portato come super mega ospite del 270esimo Coxo il festival all'improvviso il corpo che si è sdoppiato quest'anno. Cioè, c'è il nome Fedra Bosca in ogni pagina. Ma cosa di? Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Non c'è mai. va bene, andiamo con la pubblicità. Ah, non lo so, o se no, ma questa è musica già di Mighty FM o siamo noi? No, siamo noi, è Homo Mini Loops. Homo Mini Loops. Vai, mettiti la pubblicità. I super mega galattici spot delle 9. Ci vediamo se non prima, se non a Suzzara, ci vediamo lunedì al Museo dell'Homme. Ok. Alle 17. Com'è? Buongiorno, ti aspettiamo da.